non è mai stato, non è sempre stato così, anzi questa cosa si è affermata recentemente, molto recentemente nella società. Prima le, diciamo, le sanzioni erano diverse, non sono mai state gradevoli e piacevoli, è ovvio, però insomma, non necessariamente la privazione della libertà. Questo era un po' il meccanismo che si deve mettere in discussione. Per esempio, guardiamo il codice della strada, no? Siccome è molto recente, è avvenuto in tempi recenti, da quando la motorizzazione si è sviluppata, quindi nel secolo appena passato, nel Novecento, anche nel Novecento avanzato, a quel punto il carcere, nella sua originaria versione, non serviva più. Il carcere, l'abbiamo detto tante volte, ha avuto la funzione di accompagnare l'industrializzazione, cioè fare in modo che i contadini, i pastori, espropriati della loro attività economica che gli permetteva di sopravvivere, avevano come unico sbocco di andare a vendere la propria forza lavoro nelle fabbriche, negli opifici che sorgevano come funghi in quel periodo, secondo i vari paesi, dal 600, 700, 800. E quindi il meccanismo del carcere nasce proprio come tentativo di far capire a queste persone che il loro futuro, il loro destino era quello di andare a lavorare in queste fabbriche. Le primissime fabbriche erano tremende, no? L'abbiamo raccontato tante volte, orari lunghissimi, si contavano perfino 14 ore di lavoro al giorno in ambienti tossici, malsani e così via, e quindi vabbè, insomma, non era facile invogliare le persone, anche se senza nessun reddito, ad andare a passare la loro vita lì. Serviva una costrizione, e quindi nacquero le case di lavoro in cui ci mettevano quelli che appunto tentavano di sfuggire a questa costrizione. Non solo, cioè, dovevano capire che non solo il loro destino, il proprio destino, era legato a quel posto di lavoro, accettando tutte le regole e la disciplina di quel posto di lavoro, ma anche i propri figli e così via, cioè, quindi accettare come gli schiavi del qualche secolo precedente, che il tuo destino è quello. Il tuo destino è quello della tua progenie, cioè dei tuoi discendenti. E per questo appunto è stata necessaria questo sistema, detto il carcere, ossia un luogo dove, che poi non è altro che appunto la traduzione di casa di lavoro, workhouse, un posto dove ti costringono a lavorare con le guardie accanto, quindi senza salario, e con una sbobba che ti danno all'ora di pranzo, con un pagliericcio per dormire, le tue giornate passavano così. Poi ti facevano intravedere la possibilità di andare a trasferire questo modo o modus operandi, questo modo di vivere e lavorare, in un posto meno disagiato del carcere, dove appunto, finite quelle 14 ore di lavoro, perlomeno avevi 2-3 ore per poter girare a zonzo per la città senza comprare niente, perché i salari erano bassi. Però, e infatti poi nacquero appunto le osterie o i pub, no? Che poi sono diventati adesso di gran moda per i figli di papà, anche per i figli di papà. In realtà i pub o le osterie nascono appunto per, come unico momento di respiro per chi passava la vita in un posto di lavoro tremendo, con fatiche inaudite, con condizioni disagiate, un'ora al giorno, finito l'orario di lavoro, un'ora al giorno, due chiacchiere in libertà con una pinta di birra o un bicchiere di vino. Questa è la nascita di quel il dopolavoro di un sistema di regolazione coatto molto forte, e nasce appunto con questi due termini. E però appunto questo disciplinamento si raggiunge col carcere. Poi questa missione triste è stata compiuta. Oggi nessuno fugge più, va a fare il vagabondo per fuggire al carcere. Se ci sono casi, sono proprio l'uno per un milione, estremamente esigui e quindi del tutto insignificanti. Mentre allora appunto all'inizio era molto diffuso, la gente scappava da queste carceri galere e andava a fare il vagabondo, e però vennero massacrati fino a che appunto non si ridussero a più miti consigli, cioè non accettarono quella situazione. A questo punto uno diceva: allora perché tenere ancora il carcere, visto che la sua funzione triste, tremenda, vigliacca, realizzata? E questo è l'interrogativo che da più parti ci si pone e su cui probabilmente in questi dall'anno scorso si comincia a ridiscutere anche in questo paese. In the gazes observe the spaces between the old men's cattle. He brewed a song of love and hatred, oblique suggestions, and he waited. He polarized the pumpkin eaters, static humming panel beaters, freshly day glowed factory cheaters, salary heat and collar scrubbing. He titillated men of action, belly warming and still rubbing on the parts they never mentioned. He pacified the nappy suffering, infants bleating, one-line jokers, TV documentary makers, overfed and undertakers, Sunday paper backgammon players, family scars and women haters. And he called the band down to the stage, and they looked at all the friends he made. Questa stupenda musica, avete riconosciuto chi sono? Sicuramente sono il Jethro Tull, sì, di vecchia memoria, però secondo me, mio modesto avviso, sempre validi. Dunque, comunque li rifaremo ripartire al prossimo stacco musicale. Dicevamo, questo è il punto centrale, e per tanto tempo si è dimenticato questo interrogativo, che pure dopo il secondo dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, dopo quel grande massacro, molti si sono posti, perché quando si esce da un massacro si è più sensibili, perlomeno chi l'ha scampata, chi ha portato ancora la pelle in giro, si pone un problema. E come abbiamo spiegato la volta scorsa, molti si sono posti il problema: come mai, a parte la guerra, il massacro eccetera, come mai in questi nei paesi europei, soprattutto qui nel cuore dell'Europa, non in Asia o chissà dove, ma nel cuore dell'Europa, erano sorti i campi di sterminio, che con un numero di persone massacrate nel modo più orribile, tantissime, e in modo orribile, insomma, anche la morte in guerra per bombe tremenda, ma quella morte nei campi di sterminio era veramente un altro livello di infamità, di indegnità. E si erano posti il problema, e l'altra volta abbiamo provato a spiegare come sono arrivati alla conclusione che il campo di concentramento, che poi diventa campo di sterminio, non è altro che il sistema concentrazionario, che è quello su cui si basa il carcere, portato alle estreme conseguenze. Non è un'altra cosa, non è un'idea che viene chissà da dove, dal Marte o da angoli remoti di questa terra, ma è esatto il concetto che permette di tenere in piedi le galere, le carceri, in tutte le società cosiddette civili. Perché il sistema concentrazionario parte da questo presupposto: se tu, persona, violi, trasgredisci una legge, io, Stato, a nome di tutta la società, mi sono arrogato l'autorità, cioè mi sento l'autorità per prenderti, deportarti in un altro posto, distante dal posto dove vivi tu, troncarti, tagliarti tutte le relazioni che hai costruito fino a quel momento, affettive, familiari, amicali, di lavoro, ludiche, di gioco, eccetera, e ti porti in un altro posto dove la tua vita è azzerata, è sotto la mia dello Stato totale proprietà. E questi posti li chiamo carceri, istituti penitenziari, i nomi sono tanti, però quello è il galere, come volete. Ecco, che cos'è questo elemento al fondo, cioè proviamo a scarnificarlo, se non il principio di deportazione? Io ti prendo e ti porto in un altro posto. So che il carcere poi sia soltanto, per esempio, a 2 chilometri, a 3 chilometri, a 10 chilometri da dove vivi tu, non ha importanza, non è la distanza fisica, è che è un altro luogo. Lì dentro al carcere, chi ci viene buttato a forza non trova niente di quello che aveva fuori, appunto gli amici, le relazioni, la passeggiata, il parchetto, andare a giocare a pallone o andarsi a sedere al bar e pia un caffè, cioè l'edicola dove comprare il giornale, il tabaccaio dove comprare le sigarette, cioè le cose normali di una vita anche grama, povera, però comunque piena di relazioni che uno riesce a costruirsi in quel posto, anche se era a poche distanze, a pochi chilometri o anche a pochi metri dalla tua abitazione o dal posto dove vivevi, è completamente diverso, è tutto azzerato, non c'è nulla. Quindi era una vera deportazione, come se ti prendesse ti portassero in un deserto, è la stessa cosa. D'altronde il carcere è chiamato il deserto, la casa del nulla, cioè il niente, perché lì appunto non avviene nulla di quello che hai lasciato fuori. E dunque è il principio della deportazione, esattamente come appunto il sistema che ha prodotto i campi di concentramento, i campi di sterminio, la deportazione. Infatti era basato sulla deportazione, la parola chiave su cui si mise in piedi, il nazismo mise in piedi, e poi anche il fascismo l'accompagnò, mise in piedi il progetto del campo di concentramento, era la deportazione. Cioè io Stato mi sento il diritto, mi sono arrogato il diritto di prendere delle persone in base a un principio, anche se non avevano fatto una trasgressione fisica, ma in base alla loro connotazione che considero pericolosi socialmente, li prendo e li porto in un altro, li deporto. Deporto significa portare lontano, deportare, cioè portare al di là di un luogo ben fissato. Ti porto lontano e ti impongo una vita completamente diversa da quella che tu avevi. Questo è il campo di concentramento. Che poi l'obiettivo di questo campo di concentramento sia di tenere separate questi gruppi di popolazione da quello che sta facendo la guerra, in quel caso l'accumulazione, l'arricchimento, l'impero, quello che sia, oppure punto d'arrivo sia la morte, la soppressione di queste persone, non è che cambia l'ordine delle cose, perché poi anche nei campi di concentramento non finalizzati allo sterminio, la gente morivano come mosche, ne morivano tantissimi. Pensate che appunto le i campi di, molti campi di concentramento li ha realizzati anche questo paese, perché c'era il regime fascista qui in Italia che era alleato del nazismo, e quindi quando iniziò la guerra alcune persone, per esempio qui in Italia, iniziò la guerra contro la Jugoslavia, l'Italia, perché doveva conquistare alcune zone e le conquistò militarmente, ovviamente la riperse, e le persone slave, di origine slava, no, che stavano in Italia a lavorare, a fare altre cose, vennero prese in quanto individuate come nemici. Cioè, siccome noi stiamo facendo la guerra contro la Jugoslavia, quindi i jugoslavi e le jugoslave sono considerate nemiche. Quelle che stanno qui in Italia, perché stavano facendo i loro affari, lavoravano, per di più molti lavoravano, vengono prese e internate in campi di concentramento. Perché? Perché potenzialmente potrebbero rivelarsi nemici, nel senso di fare, diciamo, dare un aiuto alla nazione da cui provengono, la Jugoslavia, e quindi essere un nemico in casa. Che è una cosa che hanno fatto un po' tutti, anche quando quando l'Inghilterra e Germania si dichiararono la guerra, Francia e Inghilterra da una parte, Germania e Austria dall'altra, rispettivamente arrestarono le persone dell'altra nazionalità che stavano nel proprio territorio. Questo è il meccanismo della deportazione, su cui sono basate le galere. Allora, riprendendo un po' il discorso, no? Questa cosa l'abbiamo provato a spiegare l'altra volta, questo legame tra campo di concentramento e carcere. Proviamo a vedere perché appunto il discorso che quella comprensione, quella consapevolezza che il carcere e il campo di concentramento avevano dei grossi punti in comune, soprattutto le radici, le stesse radici, e quindi nacque il discorso mettiamo in discussione, troviamo altre forme di sanzione che non siano la privazione della libertà, e nacquero alcune idee tantissime, i lavori socialmente utili, la semilibertà, il lavoro all'esterno, mille altre cose, no? In parte messe in piedi da alcuni paesi del nord Europa, in parte appena centellinate come qui da noi, però ma perché queste dovevano sostituire, cioè dovevano dire noi iniziamo a vedere queste altre forme, le sperimentiamo, no? Cerchiamo altre sanzioni diverse dalla galera, dalla sottrazione della libertà, dalla deportazione, proviamo a fare altre cose e poi man mano le sostituiamo, no? E così hanno pensato di fare. Poi si sono accorti che in realtà il discorso e tutti gli stati, ovviamente prima quelli meno democratici, per esempio l'Italia, che insomma non ha mai brillato la democrazia, la stessa Francia, la Spagna, che c'ha avuto fino alla metà degli anni 70 una dittatura fascista, e così via, no? Ma parecchie si sono resi conto che tenere la popolazione sotto il segno della paura, e quindi dire io Stato ti garantisco sicurezza, era un modo per contenere le opposizioni, le critiche che tutti la gente del popolo fa alla politica del governo, perché la politica del governo raramente, quasi mai, accontenta i bisogni e le necessità della popolazione, però venivano smussate dal fatto che dice io Stato però sì ti faccio star male, però garantisco la tua sicurezza, perché questi cattivi, questi delinquenti, se creata la categoria il delinquente, il criminale, mette in discussione i tuoi poteri, anche se non c'è niente, no? Ipoteticamente quelli che la tua vita, la tua garanzia di vita, cioè inventandosi una favola che però la gente, martellando giorno per giorno a scuola, in famiglia, televisione, giornali, cinema, eccetera, è passata. E questa cosa è passata, tutti si sono convinti che la galera serve per tutelare le proprie proprietà, che sono ridotte al minimo, cioè, parliamo qui della popolazione proletaria, quindi pochissime cose, però insomma, ma non è un fatto ideologico più che un fatto materiale, perché per esempio se noi pensiamo quanto costa a tutti noi cittadini che paghiamo le tasse, che abbiamo i problemi con la sanità, con la scuola perché costa, con la sanità che non è più gratuita, con l'affitto delle case, con tutti i servizi che costano una tombola, eccetera. Ebbene, quanto ci costa questa cosiddetta sicurezza, ossia enormità di forze pubbliche con attrezzature costosissime, che sono in Italia la forza pubblica, sapete, è rispetto alla popolazione è la più numerosa di tutta Europa, nel senso tra polizia, carabinieri e guardia di finanza in Italia in rapporto alla popolazione esistente, i circa 60 milioni sono molti di più, quasi il doppio in qualche caso del rapporto tra forze dell'ordine e popolazione in altri paesi. Parliamo sempre dell'Europa, quindi non diversi, differenze notevoli. E questa cosa appunto ci costa un sacco di soldi. Per che cosa? Per tutelare che cosa? Quel nulla che abbiamo, perché non è che c'è da tutelare chissà che. E però appunto questa cosa funziona. Ma soprattutto funziona, quindi avendo convinto la gente che il problema della tutela della proprietà, quindi della sicurezza, del combattere la paura, è diciamo il compito principale dello Stato repressivo con la sua forza pubblica, carcere eccetera, nei momenti elettorali quei partiti che dicono io vi do più sicurezza, quindi più galera, più forze dell'ordine eccetera, prende un sacco di voti. E a quel punto questo discorso che di cominciare a criticare il carcere per diminuirne la presenza nella realtà ha perso consensi, cioè è un po' scemata, perché nessun partito politico portava avanti questo discorso in quanto perdeva i voti. Adesso per esempio verificate in questi giorni tra qui a Roma, ma anche a Milano e in altre grandi città, a primavera inoltrata, maggio-giugno si voterà, probabilmente a giugno, non so, stanno discutendo che giorno fare, comunque o maggio-giugno, appunto forse a giugno si voterà per il rinnovo dei consigli comunali, del sindaco e dei consigli comunali. Bene, voi vedrete che quel dibattito che è iniziato, perché appunto ho cominciato a dire che era ripreso da un paio d'anni questo dibattito di mettere in discussione questa presenza invasiva del carcere, della privazione di libertà come sistema unico sanzionatorio, quindi con dei dibattiti ancora periferici, e comincia a mettersi in moto, vedrete che verrà bloccato, perché anche ancora una volta quei partiti che diranno più galera, più sicurezza, prenderanno sempre più prenderanno più voti, quindi lo diranno tutti, perché nessuno vuole rischiare di fare un ragionamento complesso, un po' perché non lo sanno fare, diciamo la verità, c'è un'ignoranza spaventosa storica, perché basterebbe fare un excursus storico per capire che il carcere non c'è una vita molto breve, insomma è nato nel 600, quindi non c'è sempre stato e non ci sarà sempre, quindi è un periodo transitorio, ha avuto la sua esistenza transitoria, bello o brutta, questo poi è un altro discorso, però si può cominciare a togliere per affrontarlo in maniera diversa la questione delle sanzioni. Addirittura, come sapete, il ministro della giustizia Andrea Orlando, con la sua equipe diciamo riformatrice, appena insediato, aveva iniziato un percorso e ha lanciato gli stati generali sull'esecuzione della pena. L'esecuzione della pena è questa, cioè appunto le sanzioni, il carcere, sostanzialmente la repressione e carcere, e aveva cominciato, facciamo gli stati generali, cioè ascoltiamo tutti quelli che hanno a che vedere col sistema repressivo sanzionatorio, tranne i detenuti ovviamente, quelli che lo subiscono li sentiamo, beh, ma questo è un andazzo del sistema Italia, quindi, però comunque operatori, tutti in divisa o in borghese o comunque assistenti eccetera, per capire se si può cominciare a fare dei cambiamenti, questa era l'idea. È durato un sacco di mesi questi tavoli, 18 tavoli, 6 mesi circa, hanno prodotto un sacco di materiale che non ci fanno conoscere, perché più associazioni che lavorano sul carcere hanno chiesto di pubblicarli questi lavori, no? Relazioni conclusive di questi 18 tavoli, per capire quelle saranno poi le idee che indirizzeranno le riforme reali, comunque i provvedimenti reali sul carcere dei futuri governi, ma non ce li fa conoscere. Perché? Perché probabilmente hanno capito che in questo periodo, siamo di nuovo in periodo elettorale, non si può parlare di l'idea qual era di Orlando? Cercare di tutta quest'area di diminuire l'invasività del carcere, cioè di ridurre man mano il carcere ai delitti più gravi, insomma, e togliere mano a mano la punizione, la sanzione del carcere per i reati più piccoli, in modo da sminuire. Questa necessità era dettata non tanto da ideali come potete immaginare, ma dal costo enorme che ha il carcere. In Italia sono 3 miliardi di euro per per l'erario pubblico il costo per tenere in piedi questi circa 200 istituti penitenziari. 3 miliardi di euro che non sono uno scherzetto, mentre invece per esempio misure diverse come la semilibertà, la detenzione domiciliare costano molto meno, perché appunto tu stai a casa tua, non è che se non il controllo della polizia che viene periodicamente a controllare che tu stai lì e lo fa saltuariamente quando vuole, chiaramente non costi niente all'erario pubblico. Questo era il discorso generale. Questa cosa si è fermata ora. Certo, finora hanno prodotto un po' di alcuni provvedimenti legislativi che hanno ridotto le presenze in carcere dai 68-69 mila presenze in carcere, enorme, un record, no? Che si è avuto nel 2010-2011, e oggi si è arrivati a 51 mila e poco più. Quindi si è ridotto notevolmente, perché le leggi, alcune sono state fatte di ridurre la custodia cautelare, cioè il carcere prima della sentenza, ridurlo molto alle sanzioni più gravi, e poi permettere alle sanzioni punite con massimo di 4 anni di andare direttamente dal processo in misura alternativa, quindi senza passare per il carcere. Questo ha ridotto un po', però non basta ancora, perché appunto è ancora troppo mastodontica questa presenza per loro che fanno i conti del costo e del fatto. Inoltre gli studi fatti così obiettivamente, quindi non da persone che odiano o che criticano il carcere, hanno dimostrato questo: le persone che fanno una sanzione, fanno una trasgressione alla legge, qualunque essa sia, che è stato fatto casualmente proprio per tutti, e poi la sanzione è il carcere, al 60-70% quando escono al carcere tornano a fare il reato che hanno fatto, che li ha portati dentro. Se invece quelli invece che fanno il reato, la trasgressione alla legge, e vengono sanzionati con misure diverse dal carcere, la percentuale è intorno ai 20% di chi torna recidivi, cioè chi torna a fare il reato che l'ha portato sotto il giudice che l'ha processato. Quindi, come vedete, è anche meno conveniente per la società mettere gente in carcere, perché sa che ne dirà fuori persone che continueranno, invoglia la gente a continuare a fare le cose per cui si va in galera, mentre invece se si usano altri meccanismi c'è proprio scatta quel fatto di dire vabbè, stavolta l'ho scampata, e ovviamente perché rimane la spada di Damocle, cioè tu ne fai una seconda, diventi recidivo e a quel punto poi va proprio in galera. Quindi succede, funziona così, no? Alla prima funziona pure con alcuni genitori lo usano nell'educazione dei ragazzini, alla prima c'è solo il rimbrotto verbale e dopodiché dicono però alla seconda ti punisco veramente. Ecco, questo è il meccanismo. Vabbè, il meccanismo è questo. Scusate, ciò che si sta facendo in Italia è molto poco. Si è interrotto quel percorso che si era messo in moto. Io penso che la tendenza andrà in questo senso. Anche in America, in tutta Europa stanno lavorando per questo, perché intanto è troppo costoso il carcere, e poi perché veramente dà dei risultati talmente assurdi, contrari alle esigenze anche di tutti, no? Perché appunto produce criminali, produce aumento della trasgressione della legge, produce le bande, lì dentro il carcere si costruiscono le bande attualmente, ma questa un po' è una baggianata, comunque lo dicono, ne parlano molti giornali, avete letto, in carcere questi gruppi terroristici internazionali come l'ISIS e altri reclutano delle persone, che può essere pure, perché la disperazione che ti porta lì dentro ti fa poi andare, ma io che conosco il carcere bene come le mie tasche, perché insomma ci ho passato parte della vita, posso dire che comunque, a parte queste cose che non c'erano allora e forse manco ci stanno adesso, le organizzazioni terroristiche internazionali, però le bande della malavita organizzata usavano il carcere come reclutamento principale dei loro ragazzi, perché andavano da persone che erano finite in carcere perché hanno fatto una rapina andata male, o un furto andata male, o altre cose così, perché c'erano bisogno di soldi, e erano stati presi e portati in carcere. Quindi li vedevano lì disperati, senza una lira per comprarsi manco le sigarette, con la famiglia fuori che chiedeva, non solo non gli mandava niente, ma chiedeva sostentamento. Erano proprio disperati, e questi andavano sotto e dicevano vabbè, ti serve l'aiuto della famiglia, te la diamo noi, ti serve un aiuto a te, te lo diamo noi, però tu da adesso in poi diventi un nostro affiliato e fai quello che diciamo noi. E la gran, è chiaro che è difficile dire di no, visto che è l'unica mano tesa in quella situazione. In carcere l'unica mano tesa te la tendono queste organizzazioni della... e lo Stato non te la tiene, non perché dovrebbe, cioè tutte queste baggianate si dicono, non è vero, non c'è questa cosa qui, e quindi è chiaro che la mano tesa, quando stai per affogare raccogli la prima mano tesa, non ti metti a discutere se quella mano è in questa, di questa tendenza o quell'altra. Ovviamente questa grossa verità, che è scritta in centinaia di libri, fanno finta di non conoscerla. Beh, un po' perché non leggono i nostri governanti, perlomeno quelli di questo periodo, di questi ultimi 20 anni, sono di un'ignoranza straordinaria, spaventosa. Ma anche quei pochi che l'hanno letta stanno zitti, perché l'omertà oggi paga. Paper, backgammon players, family's gone and wailing haters. And then he called the band down to the stage, and he looked at all the friends he made. The minstrel in the gallery looked down on the rabbit run. Then he threw c'è una buona colonna musicale sottofondo, nella trasmissione va interrotta, perché non è una trasmissione musicale questa, quindi pezzi musicali vanno interrotti, perché altrimenti sono troppo lunghi, poi questi dei Jethro Tull sono notevolmente lunghi, ma anche un po' tutti i brani di quel periodo, per dire, gli anni 70 erano abbastanza lunghi, non diciamo più che sufficienti, più della lunghezza che normalmente si dà uno stacco musicale. Dunque è uscito l'Espresso, sapete l'Espresso è una rivista molto diffusa, del primo di febbraio, che porta un articolo molto interessante, è un'inchiesta fatta un po' molto superficiale secondo me, vediamo perché. E intanto il titolo è molto interessante, dice psicofarmaci dietro le sbarre, psicofarmaci dietro le sbarre, ossia in galera si usano i psicofarmaci, così due punti e di seguito così si annullano gli esseri umani. E quindi il discorso è buono, il titolo è buono, dice è quello che pensiamo noi, è vero, gli psicofarmaci distruggono gli esseri umani. E in carcere l'abbiamo denunciato da tempo, chi ascolta questa trasmissione lo sa, c'ha le prove da decenni da quando abbiamo cominciato. Perché? Perché i psicofarmaci permettono di far addormentare, tenere buoni i detenuti, e questo è l'obiettivo di chi ha in mano il sistema carcere, non tanto instaurare un discorso, farli, anzi non attivizzarli per qualunque cosa interessante, ma farli morire di inedia, farli addormentare. E quindi vengono facilmente, io al tempo che anche stavo io in carcere, ma parliamo di molti anni fa, molti decenni fa, eppure si diceva già, è più facile nelle infermierie del carcere, a una certa ora, in genere alle 5-6 del pomeriggio passa il carrello dell'infermiere per dare le varie terapie che sono state assegnate dal medico di reparto. Ebbene, era difficile trovare un'aspirina quando c'era un'anisilina, qualcosa per il mal di testa, perché dolori di testa, i dolori muscolari sono diffusissimi, un calmante per i dolori era difficile trovarlo, mentre invece era molto facile trovare il Valium. Allora andava molto il Valium, che è anch'esso uno psicofarmaco, rallenta, addormenta, rilassa. Ma adesso la cosa è molto più grave. Vediamo, scorriamo questo articolo che dice in carcere lo chiamano il carrello della felicità, appunto il carrello che passa il pomeriggio verso le 5 le 6, insomma finita l'aria e la conta del pomeriggio, tra un po' quindi passa nei reparti del carcere con l'infermiere che distribuisce appunto i farmaci, e si è chiamato il carrello della felicità. Questo però non è un termine vecchio né un termine diffuso, è il termine che si sta diffondendo, perché appunto questo porta gli psicofarmaci e li distribuisce. Non dovrebbero essere distribuiti, però questo sistema, è chiaro che il direttore, il capo delle guardie, tutti quanti hanno, e le guardie stesse insomma, hanno interesse a dire all'infermiere sì, distribuisci pure gli psicofarmaci, perché questi più stanno addormentati e meglio è per noi, che li dobbiamo controllare. E insomma e qui i dati, poi dice alcuni dati, e fino a qui va bene, no? Dunque, vabbè, i detenuti sono, qui il dato è quello precedente, 52.164, a gennaio, al 31 gennaio sono leggermente diminuiti, comunque beh, intorno a quello. La terapia serale, dice, il dato è questo, il 75% dei detenuti, cioè il 3/4 dei detenuti, il 75%, ricorrerebbe, mette il condizionale perché non ci stanno i dati, però da questa inchiesta che ha fatto questo giornalista, intervistando appunto queste persone, infermieri, guardie eccetera, il 75% dei detenuti ricorrerebbe a quella che viene definita terapia serale, ossia sedativi per dormire. Insomma, quali sono questi sedativi? Allora, quelli più, si chiama la felicità chimica, vabbè, questi sono dati presi da quando ci fu la diffusione dell'eroina nei quartieri popolari di questo paese, di queste città, di questa città soprattutto, molto, ma anche Milano, ma anche Napoli, ma anche Torino, tutte, e che forse purtroppo pare che cominci a riprendere, insomma, però adesso i farmaci più diffusi, diciamo, che vengono dati con maggior frequenza in carcere sono gli antidepressivi come il Prozac, che provocano però un torpore e un immaginario benessere che però è addormentamento, è annullamento della personalità. Anche gli antipsicotici, dice qui, sono molto diffusi, e gli stabilizzatori dell'umore, come se, so, che sono anch'essi fortemente dei prodotti chimici devastanti, come il litio. Il litio è questo che stabilizza l'umore, secondo loro, cioè appunto, però sempre a un livello di addormentamento sostanzialmente. Ma quelli più diffusi, in realtà, dice qui, quelli più diffusi sono le benzodiazepine. Le benzodiazepine sono dei farmaci utilizzati per combattere l'insonnia, per combattere l'ansia e le convulsioni, cioè gli stati d'animo di grossa sofferenza. Quando non dormi perché sei in preda di pensieri feroci, quando ti viene l'ansia perché non vedi via d'uscita alla tua vita, e quando sei sottoposto a convulsioni perché non riesci a trovare una regolazione della tua vita. E qui, fino a qui tutto bene, poi porta i dati, vabbè, per esempio il carcere di Buoncammino a Cagliari, e quello di Uta, il nuovo carcere che sostituisce, sta sostituendo quello di Buoncammino, che era devastato, cioè, e lì è molto forte questa, perché hanno fatto dei giri per le carceri, quindi hanno preso questi dati, queste interviste con le guardie, con i dirigenti, i direttori, gli educatori e tutto quanto. C'è addirittura un medico, un vecchio medico del carcere, che è stato per tanti anni a dirigere il centro clinico di Don Bosco, del carcere di Don Bosco di Pisa, che dice: le carceri sono diventate fabbriche di zombie, perché appunto l'uso di questi psicofarmaci crea degli zombie, ed è una situazione drammatica, che si vuol tacere, perché fa comodo a tutti. A chi fa comodo? A tutti. Addormentare le persone che appunto hanno trasgredito la legge è un problema che è completamente illegale. Qui siamo, visto che alcuni amano queste categorie, legalità e illegalità, bisogna fare le battaglie per la legalità, sono quelli che poi mantengono in vita questo. Ora, attenzione, abbiamo cominciato la trasmissione perché dicendo che la cosa più immonda, vergognosa, che ha prodotto l'umanità in questi ultimi suoi secoli è quella, è la deportazione, il carcere, il campo di concentramento, la tortura, tutte cose che stanno dentro al sistema carcere concentrazionario, quindi è la cosa più tremenda, e quindi abbiamo detto va superata, e ci sono anche delle intelligenze al lavoro per cercare di cambiare il sistema sanzionatorio sostituendo al carcere altre sanzioni. Adesso se ne sta però, oltre al carcere, procedendo un'altra, e qui andiamo proprio nei film di fantascienza che abbiamo visto, che però erano di fantasia, appunto fantasia più che altro, e invece diventa quello di ridurre coloro che trasgrediscono la legge a zombie. Allora, considerate che questi qui abbiamo nominato, che ha nominato l'Espresso, probabilmente ce ne saranno pure altri, il Prozac, gli antipsicotici come lì, quelli a base di litio, o le benzodiazepine, sono totalmente, creano dipendenza, creano più dipendenza questi che tutte le altre cosiddette droghe. Questi sono quelli che al 100% e molto rapidamente creano una dipendenza da cui non se ne esce facilmente. Quindi sono le cose più devastanti prodotte dall'umanità, questi farmaci. Che cosa producono le persone? Lì per lì è come era l'eroina, no? Infatti provengono dalle stesse molecole modificate in laboratorio. Producono lì per lì un sollievo, perché ti fanno dimenticare quella parte di te, diciamo di elementi psichici e mentali che ti provocano il problema, ti creano il problema, a cui però puoi trovare soluzione, o comunque ti mantiene vivo per la ricerca della soluzione, ti fanno dimenticare tutto, e quindi sembra che stai meglio, questo finto benessere, che però poi diventa la dipendenza, perché nel momento in cui tu smetti l'uso di questi psicofarmaci, cadi in forte in depressione, in ansia totale, e si producono, attenzione, qui viene l'altro dramma tremendo, si producono i tentativi di suicidio. Quando per un caso, perché uno cambia carcere, o perché appunto per tanti motivi può succedere, cambi reparto, cambi carcere, quindi quell'accordo consenziente tacito che aveva fatto il detenuto con l'infermiere che passava, di farsi dare uno di questi psicofarmaci tranquillamente sotto mano, senza che non era stato diciamo messo dal medico, dichiarato, segnalato dal medico, però veniva dato così per tenersi buoni, e per un caso pelato ti vengono a mancare. A quel punto lo stato d'ansia, l'insonnia, la nevrosi, le convulsioni vanno talmente alte che le persone provocano il suicidio. Infatti lo dice questo articolo, che è il punto d'arrivo in un suicidio, del suicidio, o l'autolesionismo diffusissimo, sono circa 20.000 su 50.000 detenuti, 18-19.000 attuano atti di autolesionismo verso se stessi, a volte per motivi, per evitare un pestaggio, per evitare un trasferimento in posti brutti, tremendi o distanti dai propri familiari, ma altre volte perché appunto sono presi da questi stati d'ansia dovuti alla mancanza, raddoppiati, moltiplicati dall'assenza improvvisa di questi psicofarmaci. Uno viene trasferito in quell'altro carcere, a parte che non è detto che ci siano, e poi così diffusi, perché in ogni carcere c'è un andazzo diverso. Queste sono cose che sotto banco, che non è che vengono segnate. Sì, puoi trovare pure il medico che te li segna, a volte li segnano, però ti ci vuole tempo per arrivare a questo, nel frattempo ti mancano, quindi c'è anche questo stato della improvvisa mancanza di questi, fatti, questi farmaci. Quindi hanno questi elementi. Uno, che creano degli zombie, l'ha detto un medico che per 40 anni è stato direttore del centro clinico nel carcere di Don Bosco a Pisa, e quindi zombie che non vivono più. Già in carcere è difficile vivere, però con la volontà, con l'organizzazione collettiva, con la volontà di uscirne, di andar via, di portare fuori non solo le ossa e la pelle, ma di portare fuori la propria voglia di vivere, si può sopravvivere anche in carcere. È chiaro che se ti butti invece sotto le pezze, come si dice a Roma, se ti butti in branda, buttarsi in branda in termini carcerari vuol dire arrendersi al carcere, vuol dire appunto non mettere più in moto quelle necessità che ti fanno vivere, continuare a vivere, pensare, immaginare, preparare evasioni, anche se poi non le porti a frutto, però ti permettono di essere vivo. Organizzare proteste, rivolte, eccetera, ti mantengono vivo. Questo è l'obiettivo: non evitare che il carcere ti uccida dentro, a volte ti uccide anche fuori, però anche quello dentro è più diffuso. Ecco, questo fatto spiega anche perché molte persone appena uscite dal carcere, imbottite di questi psicofarmaci, improvvisamente fuori, perché la famiglia, per carità, non li fa prendere, non riescono a trovarne la quantità nel giro non legale. È chiaro che anche in quel caso, no? Gente appena uscita dal carcere che tenta il suicidio, proprio perché appunto l'assenza di questi psicofarmaci, ma soprattutto perché crea una popolazione di zombie, di persone inesistenti, che fa comodo al sistema carcerario, perché il sistema carcerario vuole che quei detenuti facciano meno movimenti possibili, meno attività vera possibile, quindi siano più morti possibile, e questi psicofarmaci portano avanti. E fino a qui, se volete, rimediate il numero in edicola dell'Espresso e ve lo leggete. Chi ha internet se lo può leggere anche su internet, ci sta, vedete, cercate l'Espresso del 1 febbraio. Il problema è un altro. Va bene articoli così che denunciano, no? Ecco, però molto superficiale. Perché? Perché quando qui ci dice che il Prozac è più diffuso, gli antipsicotici a base di litio, le benzodiazepine, eccetera, eccetera, sono queste le più diffuse perché combattono l'umore che va giù, le convulsioni, l'insonnia, l'ansia. Il problema, tu che stai scrivendo un articolo, come ti chiami qui, giornalista, ebbene, va bene che critichi questa cosa qui, ma perché non ti poni perché là dentro si sviluppa in maniera così forte l'ansia o le convulsioni o l'insonnia o lo stato d'animo agitato che porta, poi induce il detenuto a cercare lo psicofarmaco? Perché in carcere si matura un'ansia devastante? Perché si arriva alle convulsioni? Perché? Perché evidentemente è il sistema carcere che ti riporta quelle cose lì, è il sistema carcere che ti devasta a tal punto che l'unica soluzione è quella di chiedere lo psicofarmaco, perché sennò non vivi più. Non vivi più perché quest'ansia ti impedisce di dormire, di pensare, sei sempre dai le capocciate al muro, veramente, fisicamente le capocciate al muro. Ecco, allora il problema è questo discorso, queste critiche che vanno bene, per carità, va bene, però se si fa un articolo su giornali che si ritengono intellettualmente importanti come l'Espresso, bisogna... E quando si denuncia, appunto, come ha fatto, come questo articolo Espresso, quando si denuncia un andamento che sta succedendo, almeno buttar lì l'idea, dire: ma come mai questi detenuti che fanno ricorso, il 75% dei detenuti cercano psicofarmaci per combattere l'ansia, l'insonnia, gli stati di abbattimento dell'umore, le convulsioni? Perché? Perché evidentemente c'hanno questi stati d'animo. E perché il carcere produce questi stati d'animo? Punto di domanda. E allora, il problema, torniamo alle origini della trasmissione di oggi, ma anche dei 15 anni di trasmissione. E allora, ma è uno Stato, che poi si dice democratico, ma anche se non lo è, ma non ha importanza, uno Stato senza altri attributi, si è autorizzato a indurre un supplizio così forte alle persone per cui poi richiedono gli psicofarmaci per sedare queste torture? No, ovviamente no. Quindi è uno stato illegale, indegno, non lo possono fare questa cosa, non possono tenere in piedi un le carceri non le possono tenere in piedi perché producono, lo dicono loro stessi, producono un'ansia devastante, l'insonnia, gli abbattimenti dell'umore, le convulsioni, cioè distruggono le persone già il carcere. E poi ovviamente di fronte a queste cose la richiesta di droghe statali come gli psicofarmaci, non statali perché sono privati quelli che producono sta roba e fanno i miliardi a palate sulla vita della gente, producono dei veleni che uccidono le persone ma non gliene frega niente, quelli cercano soltanto il profitto. Ecco, questa cosa rimette al centro, anche questo articolo rimette al centro il problema. Noi siamo colpevoli, noi che siamo fuori siamo colpevoli, non quelli che stanno dentro, non quelli che stanno dentro e quelle che stanno dentro, noi fuori siamo colpevoli perché autorizziamo, perché lo fa in nome nostro, autorizziamo lo Stato, questo Stato qui, a torturare le persone che hanno violato una legge, a farli arrivare a livelli di sofferenza tale per cui poi cercano lo psicofarmaco. Questo dice questo articolo. Sotto le righe, non le dice esplicitamente, peccato che non l'avrebbe dovuto dire esplicitamente, ma caro Stato, doveva dire, chi ti dà l'autorizzazione di portare i detenuti e le detenute a livelli di sofferenza così tanti per cui poi sono costretti a richiedere lo psicofarmaco? Chi ti dà questa autorizzazione? Noi non te la diamo, te la leviamo noi come cittadini, per cui cambia storia, abolisci il sistema sanzionatorio basato sul carcere e torniamo ad altre situazioni. On a warm straw coating, let the artists mow the land underneath. At the back of the woods, behind the young trees, grudging to hide you from eyes that mock at your goods, your 18 hands at the shoulders. And one day when the oil barons have all dripped dry and the nights are seen to draw colder, they'll take fear, strength, your gentle power, your noble grace and your victory. And you'll stray once again to the sound of the guns in the wake of the deep cloud. Allora, siamo in chiusura di trasmissione per questo mercoledì, anche perché inizia una nuova trasmissione, quindi di preparativi per questa trasmissione molto ricca di persone che vi racconteranno cose molto importanti. Noi comunque ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Non ci rimane quindi che augurare buona libertà a tutti e tutte.